tempesta dentro me. Solo la tua pace mi consola. Calma la tempesta dentro me. Solo il tuo amore mi rinnova. Ti sento accanto a me, non posso fare a meno di te. Le ansie di ogni giorno mi allontanano da te e l'anima mia si strugge senza te. Calma la tempesta dentro me, solo la tua pace mi consola. Calma la tempesta dentro me. Solo il tuo amore mi rinnova, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Soli solo tu, i dubbi della vita mi allontanano da te, il cuore mio si strugge senza te. Calma la tempesta dentro me, solo la tua pace mi consola. Calma la tempesta dentro me. Solo il tuo amore mi rinnova, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. Creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, nome alla gloria di Dio Padre. Di ogni altro nome, e ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che tu, Gesù, sei il Signore, alla gloria di Dio.